Buonasera e ben ritrovati per una nuova puntata di Overbooking, Overbooking che raggiunge così la sua terza stagione. Abbiamo fatto un inizio col botto presentandovi Ferdinando Morgana e le sue sempre mirabolanti avventure in quel del Veneto orientale, dopo aver lasciato la scuola, lasciato solo temporaneamente ovviamente, la scuola Holden di Torino, e adesso continuiamo con la nostra abituale programmazione presentando il libro della settimana, e si tratta di Acrobazie in bici di Alfred Jarry. Alfred Jarry, che è uno scrittore e un drammaturgo francese, nasce alla fine del 1800 e muore giovanissimo nel 1907. Muore in circostanze ancora poco chiare, nel senso che muore ubriaco d'assenzio sostanzialmente e pesantemente denutrito. Ora, questo fa ci aiuta a calarci un po' nel personaggio, un personaggio che però ha rivoluzionato il mondo del teatro, perché è uno dei precursori sostanzialmente del teatro dell'assurdo. Il viene ricordato tra le sue numerose opere per, diciamo, aver creato quel Père Ubu, che è diciamo una figura romanzata di quello che era il borghese del tempo, ossia un borghese avido, un po' pauroso, tirchio, che vuole ma non può sostanzialmente, che lui diciamo in persona tramite una marionetta, e dedica a questo Père Ubu ben tre romanzi. Dopodiché lavora anche a svariate pièce teatrali e è l'inventore della patafisica. La patafisica, citando lo stesso Jarry, che ne parla nel Dottor Fausto Roll, che è diciamo la sua opera che è uscita postuma. Allora, la patafisica è la scienza delle soluzioni immaginarie che accorda simbolicamente ai lineamenti le proprietà degli oggetti descritti per la loro virtualità. Bene, adesso riflettete pure su questa frase di dubbio gusto e anche però di pregevole fattura. E invece quello di cui vi parliamo quest'oggi è Acrobazie in bici. Che cos'è Acrobazie in bici? Acrobazie in bici è un volumetto uscito per Bollati Boringhieri nel 2010 e raccoglie una serie di racconti e o pezzi di racconto che Jarry ha pubblicato nel tempo e che hanno come tema la bici. Questi racconti sono stati pubblicati a suo tempo nel Mercure de France o in altre riviste letterarie francesi dell'epoca. Sostanzialmente Jarry applica alla bicicletta quello che è il suo stile, che è sostanzialmente surrealista e abbastanza scapigliato, se vogliamo. Jarry, bisogna dire che in vita era effettivamente un amante della bicicletta, e si può dire che diciamo l'interesse per questo mezzo si stava sviluppando in Francia proprio in quel periodo, e Jarry cavalca in tutti i sensi l'onda. La cavalca a tal punto che compra, senza poi pagarla però nella vita, una Clément Lux 96 ad una cifra che ai tempi era stratosferica, ossia 525 franchi. Non la pagherà mai, ma ci vivrà per tutta la vita, fino alla morte appunto per tubercolosi e sbornia a 34 anni. Ma quello che interessa è che la definizione che Jarry dava della bici: la bici come uno scheletro esterno, quindi con un prolungamento del proprio corpo. C'è un interessante introduzione a questo volumetto, che in realtà raccoglie 10 raccontini, un interessante introduzione in cui si parla proprio di come Jarry intendesse il suo rapporto con la bicicletta, tanto che la bici era, assieme a una pistola a cui lo stesso Jarry era affezionatissimo, la bici era l'altro oggetto che trovava sempre posto nella camera dello scrittore. Ora cominciamo a leggere un po' di questo Acrobazie in bici, che come dicevo raccoglie 10 scritti di Jarry sul tema della bicicletta, e leggiamo proprio il primo racconto, che è un commento che viene fatto da Jarry su quella che è probabilmente la prima opera francese a occuparsi di itinerari per bicicletta. Quindi c'è questo commento e riusciamo a capire in qualche modo come Jarry si approccia a questo tipo di sport o di attività. Così come si impara con le figure geometriche, prolungandone le linee all'esterno, formano nuove figure con proprietà simili e di maggiori dimensioni, allo stesso modo l'uomo si è accorto, piuttosto tardi, che i suoi muscoli potevano mettere in movimento, grazie alla pressione e non più all'attrazione, uno scheletro locomotore a lui esterno, preferibile poiché non necessita di secoli di evoluzione per ottenere il massimo spostamento in base alla forza impiegata. I Rosny hanno già definito la bicicletta un nuovo organo. È più che altro un prolungamento minerale del nostro sistema osseo e quasi infinitamente perfettibile, essendo nato dalla geometria. Nella loro guida, i signori Miran e Couturier si rivolgono più ai ciclisti passeggiatori che non ai viaggiatori, e a essi segnalano una serie di escursioni praticabili in mezza giornata o al massimo una giornata nelle vicinanze di Parigi, oppure ricorrendo alla ferrovia nei dintorni di città note per il loro fascino e la loro bellezza. Sebbene a questo turismo dei siti e dei monumenti preferiamo senza paragoni l'emozione estetica della velocità nel sole e nella luce, quando le impressioni visive si succedono con rapidità tale da poterne trattenere solo la risultante, e soprattutto preferiamo vivere e non pensare, non possiamo che glorificare questo libro, serie di itinerari pratici, con una profusione di ottime fotografie di tutti i siti. Questa guida ha il merito di indicare la qualità di alberghi e ristoranti, non già in base alla loro affiliazione all'UVF o al TCF, ma secondo l'esperienza diretta degli autori. Così facendo, però, ed è la nostra unica critica, si limitano a illustrare l'attraversamento delle città e dei paesi che hanno percorso, e al momento della pubblicazione della guida ignorano, ad esempio, la traversata di Ruel, suggerita dal signor Hérold, in cui si evitano tutti i tratti di selciato che troviamo invece nel pur prezioso itinerario del Touring Club. My little grasshopper airplane cannot fly very high. I find you so far from my side. I'm lost in my old green life. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. A big white plastic finger surrounds my dark green hair, but it's not your unknown caress, it's not from your unknown right hand. Oh, don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say who am I. Darkness, my name is Green Wave Death. Salt, South America's my name. World is my name, my size. And under my name, here my little grasshopper airplane cannot fly. Don't help me, my love, my brother, my girl. Just tell my name, just let me say. E Caetano Veloso ci riconduce a parlare di Alfred Jarry e il suo Acrobazie in bici, come si diceva, Bollati Boringhieri nel 2010, una raccolta di racconti sul tema dell'uso della bicicletta in chiave quantomeno surreale e illogica. Alfred Jarry, come si diceva, lavora prevalentemente per il teatro, è padre di quel Uburè che tanto ha dato alla letteratura allo scritto per il teatro, ma non solo, alla fine del 1800, e Alfred Jarry innamorato della sua bicicletta che lo accompagnerà fino alla tomba e che lui non pagherà mai se non dando due anticipi di 5 franchi ciascuno. La bici ne costava più di 500, poi però ci fu la sorella Charlotte che anche lei diede un anticipo a un certo punto di un 15 franchi. La bici, nel momento in cui Jarry morirà, tornerà al legittimo proprietario, ossia al negoziante che gliel'aveva venduta. Jarry però la userà in maniera pressante negli anni della sua vita, tanto che siparietto introduttivo di questo Acrobazie in bici si dice addirittura che si era presentato a Victor Hugo con una mise da ciclista, portando delle scarpe un po' più eleganti allacciate al collo, mentre i pantaloni invece erano, diciamo, sopra il ginocchio in modo da poter favorire le sue scampagnate. Quindi un tipo quantomeno particolare, che abusava di alcol ed assenzio, e questa cosa lo rendeva particolarmente allegro e fausto, diciamo. E diciamo in questi 10 racconti applica quella che è un suo particolare punto di vista al tema della bicicletta. Quindi in un episodio, ad esempio, troviamo quella che è un'invettiva contro il pedone pirata della strada, reo di far cadere chi si sta lanciando per una discesa a forte velocità con la propria bicicletta. In un altro abbiamo quella che è la sfida tra un treno lanciato a folle velocità in una corsa che va da Parigi alla Siberia in un testa a testa con un tandem a 5 posti guidato dai 5 più valenti ciclisti del tempo, che vengono alimentati dal perpetual motion food, ossia una specie di alimento a base di alcol potentissimo che li avrebbe spinti alla vittoria finale contro la macchina, quindi in un Parigi-Siberia-Parigi. E alla fine di questo racconto non si capisce bene se siano uomini in realtà o fantasmi, o quanto ci sia di reale, quanto ci sia poi di misterioso dietro questo testa a testa, ma questi vari ingredienti rendono anche questo pezzo godibilissimo. E poi un altro racconto che andiamo a sentire appena dopo il secondo intermezzo musicale di questa puntata riguarda l'ascesa di Gesù Cristo in bicicletta sul Golgota, anche qui in un testa a testa contro i ladroni. Purtroppo Gesù Cristo cade in una serie di occasioni e questo genera scompiglio e scalpore tra quelli che sono gli spettatori della corsa. Allora, prima di andare a scoprire questo capitoletto di Acrobazie in bici a firma di Alfred Jarry, vi ricordo che potete sempre telefonarci allo 0421 56 0993 o mandare un fax allo 0421 56 0994 e intervenire in trasmissione dandoci dei suggerimenti o anche proponendoci dei libri da presentare. Vi ricordo anche che questa puntata puntata è sempre disponibile in streaming, o potete scaricarvi il podcast da www.bloverbooking.wordpress.com. Lì troverete anche tutta una serie di attività di cui si occupa Blover Booking, che non hanno a che fare solo direttamente con la programmazione radio. Quindi, e anche cercheremo, per quello che c'è possibile, di tenervi informati su quelle che sono le iniziative che si svolgono nel San Donatese, ma non solo, e che possano avere come tema la letteratura o più in generale le attività culturali. Quindi, con la voce di Elisa, andrei ora a leggere La passione come gara in salita, che è un racconto di Alfred Jarry, che era uscito inizialmente su Le Canard Sauvage nel 1903, e appunto riguarda questa ascesa di Cristo al Golgotha sui pedali di una bicicletta di legno. Barabba, ingaggiato, dichiarò forfè. Lo starter Pilato, estraendo il suo cronometro ad acqua o clessidra, gesto che gli bagnò le mani, sempre che ci avesse semplicemente sputato dentro, diede il via. Gesù partì a tutta velocità. A quei tempi era d'uso, secondo il buon cronista sportivo San Matteo, flagellare alla partenza i ciclisti sprinter, come fanno i nostri cocchieri con i loro ippomotori. La frusta è allo stesso tempo uno stimolante e un massaggio igienico. Per cui Gesù, particolarmente in forma, partì. Ma subito si verificò l'incidente alla gomma. Una manciata di spine forò la ruota anteriore su tutta la circonferenza. Oggi notiamo la copia esatta di quella vera e propria corona di spine nelle vetrine dei fabbricanti di cicli per reclamizzare pneumatici eterni. Quello di Gesù, un ordinario tubolare da pista, non lo era. I due ladroni, che si intendevano alla perfezione, andarono in fuga. Non è vero che ci fossero dei chiodi. I tre raffigurati in certe immagini rappresentano lo smontagomme detto un minuto. Ma è bene che riferiamo innanzitutto dei ruzzoloni. E ancora prima proveremo a descrivere, in qualche modo, il veicolo. Il telaio è un'invenzione relativamente recente. È nel 1890 che comparve nelle prime biciclette. In precedenza, il corpo del veicolo si componeva di due tubi saldati perpendicolarmente l'uno sull'altro. Era quella che veniva chiamata bicicletta a corpo dritto o a croce. Gesù, dunque, dopo l'incidente alle gomme, salì a piedi per il pendio, caricandosi in spalle il suo telaio, o se vogliamo, la sua croce. Alcune incisioni del tempo riproducono questa scena, ricostruita a partire dalle fotografie. Ma sembra che lo sport del ciclo, in seguito al ben noto incidente che concluse in maniera così infausta la corsa della passione e che rende così attuale, quasi al suo anniversario, l'analogo incidente del conte Borowski sulla salita della Turbi, sembra che questo sport fosse stato vietato per un certo tempo su ordinanza del prefetto. Questo spiega perché i giornali illustrati, che riportarono la celebre scena, raffigurarono delle biciclette piuttosto fantasiose. Confusero la croce del corpo della macchina con quella dell'altra croce, quella del manubrio, dritto. Rappresentarono Gesù con le mani appoggiate sulle estremità del manubrio, e a questo proposito notiamo che Gesù pedalava sdraiato sulla schiena, al fine di diminuire l'attrito dell'aria. Notiamo anche che il telaio, o la croce della macchina, come certi cerchi moderni, era di legno. Taluni hanno insinuato a torto che il veicolo di Gesù fosse una draisina, strumento davvero improbabile per una gara di montagna nei tratti in salita. Abbrevieremo il racconto della corsa in sé, già narrata momento per momento in alcune opere specifiche e illustrata dalla pittura e dalla scultura in momenti ad hoc. Lungo l'erta piuttosto impegnativa del Golgota ci sono 14 tornanti. Fu al terzo tornante che Gesù rimediò il primo ruzzolone. Dalle tribune sua madre si allarmò. Il buon allenatore, Simone il Cireneo, la cui funzione sarebbe stata, senza l'incidente delle spine, di tirare per tagliargli il vento, portò il suo mezzo. Benché privo di abiti, Gesù sudò. Non è certo che una spettatrice gli abbia deterso il viso, ma è vero che la reporter Veronica scattò un'istantanea con la sua Kodak. Il secondo ruzzolone si verificò al settimo tornante sul selciato scivoloso. Gesù slittò, poi, per la terza volta, su una rotaia all'undicesimo. Il deplorevole incidente, noto a tutti, si verificò al dodicesimo tornante. A quel punto Gesù era testa a testa con i due ladroni da Dead. Si sa anche che continuò la corsa come aviatore, ma questo esula dal nostro argomento. Light a cigarette, La voce di Jarvis Cocker sui 102.2 di Radio San Donà. Siamo tornati in compagnia di Overbooking in questa serata in cui si parla di acrobazie in bici. Volumetto spassosissimo di Alfred Jarry per Bollati Boringhieri del 2010. Vi ricordiamo che la puntata è disponibile in podcast e in streaming da www.bloverbooking.wordpress.com e che potete sempre raggiungerci anche via mail tramite radio@radiosandona.it. Allora, ricapitolando velocemente quello che è il tema principale di acrobazia in bici, si parte dalla vicenda personale di Alfred Jarry e dal suo amore spassionato per la bicicletta. È uno dei precursori del movimento che poi si genera attorno alla bicicletta nei primi anni del Novecento, ossia quando Jarry verso la fine dell'Ottocento compra la sua bici, la sua Clément Lux 96 che lo accompagnerà fino alla morte, è uno dei primi in assoluto in Francia. Cavalca questa cosa perché ad un certo punto inizia a generarsi un certo interesse attorno a quello che è questo sport e anche questo mezzo di locomozione che Jarry intende in una maniera assolutamente peculiare come propaggine del proprio corpo, ossia come una estensione del proprio essere. E infatti Jarry dorme con la sua bicicletta e non se ne separa mai. Anzi, tutti i giorni ha un suo percorso prestabilito e l'approccio alla bicicletta è quanto di più diverso rispetto al comune intendere per l'epoca questo mezzo di locomozione, ossia per Jarry, come abbiamo visto nel primo estratto da questo acrobazia in bici, per Jarry la bicicletta è una passione diciamo idiosincratica che va molto oltre il cicloturismo, ma che gli fa provare l'emozione della velocità nel sole e nella luce. Questo Acrobazia in bici esce nel 2010 e raccoglie quelli che sono 10 contributi dello scrittore sul tema. Sono dei contributi che stanno tra il vero e il fantastico e sono contributi di vario tipo. Come dicevamo, abbiamo dei racconti usciti di solito già editi per alcune riviste letterarie dell'epoca, ma anche un commento a quello che era una guida, un atlante su le pedalate che si potevano fare attorno alla città di Parigi alla fine del 1800, e poi un commento ad un libro, quindi una recensione di un libro dove si parla di bicicletta. Jarry affronta il tema con lo stile che gli è proprio e che per tanti versi lo ha avvicinato lo ha reso uno dei tra virgolette capostipiti del surrealismo, ossia uno stile quanto mai peculiare e fuori dagli schemi. Quindi nella sua narrazione elementi fantastici, talvolta lugubri, talvolta cinici, talvolta molto divertenti, si intrecciano a quella che è la narrazione del reale. Abbiamo letto un estratto che riguardava l'ascesa al Golgota di Gesù Cristo sui pedali, ma vi consigliamo anche Sisifo favorito, in cui si parla della fatica di Sisifo che deve portare il masso